Boh, ma guarda te come mi è venuto in mente di dirgli di registrare sto film qua. Vabbè, cominciamo a guardarlo. La vedo malissimo. Almeno Jacopo lo sta guardando adesso. Magari ha qualche commento. Jacopo, è un film complicato da guardare. Bah, ci credo poco. Vabbè, dai, su, cominciamo a far sta sofferenza. Che dice? Una scena mi ha fatto venire il conato di vomito. Beh, perfetto, dopo solo 2 secondi da quando ha cominciato. Mamma mia, quanto è brutto. Minchia, incredibile. Vabbè. È perfetto sto film. Oh, andiamo bene. Vabbè, dai, cominciamo a guardare sta roba. E ora fa di nuovo cagare, mi dispiace. Va bene, niente, questa puntata non andrà in onda. Com'era il film? Che film? Guns Akimbo. Miglior film della storia, Oscar. Cazzo, bravo, tu sì che capisci. Merda, e quindi in qualche modo ha quasi soddisfatto le aspettative, però raga, cioè, per fortuna che ho fatto altre No. cose nel mentre. Come hai fatto altre cose? Ho fatto ginnastica e vedevo il film. Ma come ginnastica? Questo bisogna No, raga, io non ho concentrarsi. tempo, cioè, devo ottimizzare. Bisogna concentrarsi per guardare questo film. È un film. Hai Cazzo. detto No, ma nel cazzo. suo essere super trash è geniale, non Vabbè, dico. non poi ne parliamo, non facciamo. Va bene, dai, non spoilerò, non spoiler. Andrea, suona tanti auguri. Tanti No, no, c'è il auguri. copyright, aspetta. Sì, non credo. Va bene, benvenuti. Buon compleanno a noi. No, è puntata di compleanno numero 53. E, come avrete capito dal Siamo titolo? vecchi. Un Beh, oddio. Sì, abbiamo un anno, un anno, un anno. anno e 53 puntate. Avete sentito Roberta? Avete sentito la chitarra Ciao. di Andrea che ci fa da sottofondo? È bello, dai. Bel contributo. E sentirete anche Jacopo che ride, forse. Ma salve. Allora, per questa puntata di compleanno abbiamo deciso di trattare un film recente che è su Amazon Prime, non so fino a quando. Forse per sempre, non lo so. E, non so se c'è un motivo per cui è su Prime, forse perché non volevano farlo uscire nei cinema europei, non lo so. E fatto sta che ci ha costretto Jacopo a guardarlo. E, il titolo del film è Guns Akimbo, ma è già scritto nel titolo della puntata, quindi direi che è easy. E, faccio io l'intro? O è Sì, compleanno dai. e quindi le fa qualcun altro? No, beh, fai tu, cazzo, un anno di intro, bisogna Faccio io un anno festeggiare. di intro. Allora, il film è del 2019, però è uscito in realtà nel 2020, quasi ovunque. È stato presentato al Toronto International Film Festival nel 2019, ma la prima uscita nelle sale è del 28 febbraio 2020. Il protagonista è il nostro amico Daniel Radcliffe, anche detto Harry Potter, anche detto mi ubriaco e faccio il film di merda dopo aver fatto Harry Potter, che ricordiamo per la sua magnifica interpretazione in Miracle Workers, interpreta un angelo che non sa fare l'angelo ed è un alcolizzato di merda. Non è così, però, più o meno. Più o meno, sì. Sarebbe più divertente, in realtà. E coprotagonista Samara Weaving, che è, come ci ricorda Andrea, è la nipotina di... Oh! Scusa. Un'onomatopea. Come, scusa? No, è la giusta reazione a vedere Hugo Weaving che appare dalla finestra. Esattamente, quindi è la nipote dell'agente Smith o di Elrond. E Andrea mi ha già detto che assomiglia a Elrond, cioè mi aveva detto che assomigliava a Elrond prima di guardarlo. E, al che io sono partito un po' prevenuto. Devo dire che lei in realtà è molto carina esteticamente, solo che in questo film l'hanno truccata in modo tale che sembra una psicopatica. Tra l'altro lei ha gli occhi da Shining, la fronte bassa, da squadrata, da Homo erectus, e quindi Homo di Neanderthal, e quindi sembra davvero pazza, furiosa, è molto brava. E... No, è solamente un altro personaggio di Cloud Atlas, è sempre Hugo Weaving in realtà. Esatto. Dopodiché c'è una modella che è Natasha Bordizzo, australiana, che nessuno conosce per nessuna cosa perché non ha fatto niente. E Rhys Darby, che è abbastanza... Ne abbiamo già parlato perché era in Jumanji, credo. E, che grande! E ha fatto anche un botto di altra roba e qui in realtà fa un barbone, però in realtà... il suo ruolo. Lui è la persona migliore di quel film. Sono d'accordo. Highlight tutto il film, cazzo. Vabbè. Cioè, è valsa la pena solo per lui. Probabilmente avrete già sentito parlare di questo film e se non l'avete fatto, il film tratta di... È un meme. No, praticamente il film vuole parlare dei social network, dell'opinione pubblica, dei troll e in realtà parla di Saw, e l'enigmista, e una brutta protesi alle mani. E praticamente il film tratta di questo super cattivo, perché non posso definirlo altrimenti, che nella vita ha deciso di non solo di uccidere la gente, ma anche di aprire un business. E il business consiste nel costringere le persone a picchiarsi tra di loro o ammazzarsi tra di loro e riprenderle mentre lo fanno e mandare tutto in streaming e fare un botto di soldi. Cioè in realtà i soldi non sono al punto, perché nessuno parla mai di soldi, anche se parlano di business e di franchise. E, il punto è uccidere gente, non so fare, non ho ben capito. E fatto sta che Daniel Radcliffe è il nostro Miles, che a quanto pare si diverte la notte a scrivere cazzate sui social e sulle chat degli streaming. Scrive: ehi, non è una cosa divertente fare ammazzare la gente. E per questa motivazione lui decide di incollargli due pistole alle mani, mettergli 50 proiettili a pistola e dirgli: bene, ora dovrai uccidere questa serial killer. O non è una serial killer, è più una pazza furiosa. E, è la campionessa del gioco, dai. Sì, hai 24 ore di tempo e niente, questa è la trama. È una sorta di Crank fatto male, non so mai come, sì, altro. Esatto, dire. Esatto, sto per dirlo. Va bene, prima che voi cominciate a parlare del film, perché poi io ho delle robe da dire. Oddio, è lui. È lei. Cos'è? Andrea ha appena messo una foto di un personaggio di Hugo Weaving in Cloud Atlas, dove faceva una donna pure. Tra l'altro vi dirò di più che quello che interpreta il cattivo è Ned Denney, che ha già recitato con Harry Potter in Harry Potter, cioè con Daniel Radcliffe in Harry Potter. Sì, ma lui è un sacco visto come faccia. Sì, ha fatto anche Good Omens recentemente e... Però sì, cioè è famoso. Faceva un demone. Sì, faceva Astur. E vabbè, allora, prima di cominciare volevo dire che questo film, allora, dicevo che Jacopo ci ha costretto a guardarlo. È vero. E, è carina lei, Andrea, smetti di mandare foto, solo che è un po' ha gli occhi da Shining. è un po' dismorfica in quel film, dai, l'hanno truccata in maniera sì, dismorfica. Anche nella vita vera gli occhi da Shining, però. Vabbè, nel film non c'ha le sopracciglia, il cazzo, cioè... Sembra matta. Cioè, no, sembra matta, sembra pazza furiosa. Allora, dicevo che appunto Jacopo ci ha costretto a vederlo. E tra l'altro è anche il primo di noi che l'ha guardato. Allora, adesso vi volevo leggere la conversazione che prima della sigla avevo già un po' spoilerato, però è successa veramente. E lui ha cominciato a guardarlo il 28 marzo alle 13.13 e ha scritto un commento: sto guardando Guns Akimbo e in realtà è un film complicato da guardare. Eh già, pigliamo male. Questo alle 13.13. Alle 13.42, quindi in realtà dopo ben 30 minuti, scrive: una scena mi ha fatto venire i conati di vomito. Quindi già piglia malissimo. E questa alle 13.42. Alle 13.46 mi arriva un messaggio scritto: mamma mia quanto è brutto. Solo 3 minuti dopo. 13.56, quindi pochissimo tempo dopo, diciamo per comodità 10 minuti, perché sono effettivamente 10 minuti. No, ho cambiato idea, è perfetto sto film. Indovinate che scena è. 13.56, alle 14.01 e ora fa di nuovo cagare, mi dispiace, quindi 5 minuti dopo ha già capito tutto. Tra l'altro, non per citare nomi, ma è per fare cose strane e per citare altre persone, eccetera, qualcun altro l'ha visto e mi ha scritto un messaggio. Aspetta, se trovo. Allora, 22.37, per ora di Guns Akimbo ne ho visto solo un quarto d'ora, ma credimi è davvero bellissimo. 22.37, alle 22.42, no, rettifico, ho appena visto una delle scene più stupide e inutili che ci siano. 23.50, tolto l'abuso di slow motion, il film è bellissimo. Quindi questo film è evidentemente un film con tanti alti e bassi. E detto questo... E cosa ne pensate voi del film? Poi io devo dire qualcosa, ma voglio sentire Roberta, che ho capito che ha un'opinione piuttosto forte di questo film. Allora, nella sua bruttezza è un bel film. Oddio! No, io ho pensato, ma che cazzo di film è? Poi mi sono detta, vabbè, ma è Jacopo che l'ha suggerito, quindi devi cercare di trovare qualcosa. Qualcosa di... Sbagliatissimo. Perché posso avere un senso, vedere. No, cioè, ti devo dire, è un po' stupido, cioè, però... Però... cioè, sembrava di giocare un videogioco, un po' minchione... Un po' si sparava, che ti devo dire, cioè, nel suo essere trash va anche bene. Cioè, io facevo altre cose e guardavo il film. Ah, ecco, ok, allora. Poi il barbone lo salvo, secondo me è il personaggio topico di questo film. Oltre a Robert Redcliffe, sì. Cioè, alla fine è la vita di un nerd sfigato, ragazzi, che beve birra e viene avviluppato in una storia che è più grande di lui. Sì, anche se durante il film dice: questa non è la solita storia di un nerd sfigato. Esatto, ci sono queste testuali parole all'interno del film. Sì, lo so, ma io ho proprio pensato, ok, ancor più che lo dici, sei proprio un nerd sfigato. Comunque, nel tuo commento c'è un fatto chiave, cioè che tu mentre guardavi questo film facevi altro, e secondo me questo è un errore, perché questo film va visto inchiodato al divano, cioè che non puoi scappare, che tu finché non finisci sei lì con le mani inchiodate. È una cosa che io faccio spesso, di guardare i film e fare altro, cioè per me è un'anomalia. Onestamente non possiamo dirle un cazzo, perché io Nostalgia l'ho visto mentre facevo, stiravo e facevo, cioè facevo lavatrice, asciugatrice e stiravo, quindi... No, cioè... Non è una battuta, è la verità. Sì, no, ma va bene, cioè io non riesco neanche a esplicitare un gran commento, nel senso che, non so... Puoi vederci anche un pochino il senso di questa vita parallela, cioè della vita... anche del gioco di ruolo, della vita del videogame che prende il sopravvento sul reale. Cioè, nel senso, se uno vuole fare una lettura un po'... Ma no, ma no, ma non serve. Cioè, ma... poi lei mi sta abbastanza simpatica, è anche figa, un po' psicopatica. Il barbone vince su tutti e Robert Redcliffe è un grande sfigato, cosa che io ho sempre pensato ai tempi di Harry Potter. No, Daniel Redford. Chi è Robert Redford? Robert Redford. Daniel Redcliffe. Ok. Vabbè, è uguale. È uguale, tanto in effetti dopo Harry Potter non merita neanche di essere nominato. Colui che non deve essere, che non merita di essere nominato. Esatto. Andrea? Quindi così. Andrea, esprimi il tuo commento con una melodia. No, per me è promosso a pieni voti, non è, cioè, non è perfetto, è perfetto. Ragazzi, no, non è possibile, cioè, allora non è colpa mia che avete visto questo film, è grazie a me che avete visto questo film. Esatto, sì. Non è, cioè, no, Jacopo, perché ormai ti conosciamo, cioè, secondo me è una sorta di captatio benevolenze quella di Andrea, cioè, sta cercando di ammettere, cioè, vorrebbe dire che gli fa schifo, però non può dirlo perché sarebbe un po' banale. No, ma allora, sinceramente è talmente brutto che è bello, o cioè... No, ci sono film molto peggiori. Oddio. Sì. Cioè, non è stato il peggio del peggio che abbia mai visto. Aspetta, che hai detto? Non è più brutto di Mandy. Oddio. Ma Mandy è un capolavoro. Mandy è... Si sta laggando, non si sentiva. Cioè, è un film assurdo. Cioè, ammettiamo che è un film assurdo. Non so, per me è assurdo. Cioè, è assurdo perché non ha una logica, non ha un senso, non ha... Non... È a caso, è un film a caso che parte da un nerd sfigato, ma è un film a caso. Cioè, non ha, sì, ha una mezza trama, boh, io non è che l'abbia capita poi in maniera così. Beh, in realtà è una buona trama per essere un film d'azione. Cioè, due persone sono costrette a sparare. Cioè, è la trama di Saw, di fatto, è la trama di Crank. Sì, due persone si devono sparare. Sì. Beh, è come un videogioco, nel senso, lo scopo è ammazzare l'avversario. Cioè, è sì, ma anche Crank. Sì, no, sicuramente, però io Crank l'ho apprezzato di più per certi versi, cioè aveva un diciamo un contorno non tanto estetico ma proprio tecnico carino, cioè era tutta un erano l'adrenalinico, c'era cioè, tutta una rincorsa e la telecamera seguiva il protagonista, insomma c'era qualcosina in più. A me invece è piaciuto più questo perché è peggio, cioè Crank, d'accordo. Cioè, Crank è un film migliore, quindi mi è piaciuto di meno. Usando la logica di Salla, questo è veramente un film brutto. Sì, no. Fatto male. Non è fatto male, sai? Cioè, nel senso, ha alcune parti che sono veramente fatte da schifo, ma per la maggior parte è abbastanza buono, è anche abbastanza coerente, in realtà. A parte, secondo me, una roba strana, che poi, vabbè, vi dico dopo. No, cosa? Cioè, è... L'unica roba che non è assolutamente coerente, vabbè, nel senso, ovviamente non è coerente con la realtà, e ci siamo, però se noi prendiamo le premesse, che sono, diciamo, un mondo in cui si può fare una roba del genere, non ha molto senso che lui diventi un fottuto cecchino a metà film. Sì. Ah, ho capito. però per il resto... Però lì crede in lui, Sal. Eh no, perché alla fine poi sul finale manca il colpo. Però per il resto ci sta, cioè non ci sta, però e potevano inventarsi qualcos'altro, ma bene lo stesso. Però per il resto mi sembra abbastanza coerente con se stesso. Cioè non... Se tu dai le premesse sono queste, la società in cui la gente si può sparare tra di loro e in mezzo alla strada la polizia non fa nulla, è una roba tipo Mad Max e... possono inchiodare le pistole a uno e lui non ha problemi di nessun tipo, e tranne a pisciare e mettersi i pantaloni, apparentemente. E tra l'altro, quello è il motivo per cui ha accettato di fare il film, quella scena dove non riusciva a pisciare. Ok, chiaro. Capisci. Gli chiaro, si vuole però a quanto pare il cellulare lo maneggia da Dio. Vabbè, comunque, a parte queste premesse... No, possiamo... Dopo vi dico una cosa, possiamo anche vederci un altro senso, secondo me. Ma non c'è niente da vedere, cioè non c'è un senso da vedere, non c'è una morale. È un film da... lo so che non c'è, però io ce la voglio vedere, perché magari c'è. È un action comedy, fa ridere in alcune scene, onestamente non neanche troppo, anche perché le battute sono tipo, segaiolo. È demenziale, cioè. Però è un film d'azione, quindi la gente si spara, quello è carino. Sì, però magari l'obiettivo è anche dire, ok, concentriamoci sulla violenza, cioè una violenza tacitata nel mondo reale, poi si slatentizza e diviene oggetto di scommessa, oggetto di riso, oggetto di divertimento in un mondo virtuale, che è quello dei videogiochi, quindi potremmo vedere tutto come un grande videogioco. Perché nel mondo reale la violenza in realtà è tacitata, l'istinto violento dell'essere umano che ha. Per me l'unica cosa interessante di collegamento con la realtà è che nel film fanno riferimento a una cosa che è successa davvero. Cioè, fanno riferimento a lui che diventa un meme, quella foto di lui che sta per strada col accappatoio, le ciabatte pelose e le armi in mano. Quella foto è diventata davvero un meme prima che uscisse il film. Cioè, anche adesso la gente usa quel meme, non so, per dire cosa, dipende, magari lo mettono in contrasto con lui da piccolo su Harry Potter, vabbè. Però mi fa ridere, tipo, che a proposito di cose che non hanno senso, che lui alla fine dice, fa tutto il discorso, no, ah, ma nella realtà queste cose non succedono, parlando di una cosa, vabbè, non so dire cosa di preciso. Scena successiva, tipo veramente 30 secondi dopo, e lui è cioè, succede un'altra cosa che è impossibile. Cioè, non, che lui, cioè, diventa uno strafigo. Vabbè, lasciamo perdere. Però ci può stare, magari è, non so, nel frattempo è andato in coma o c'ha. Spero non facciano un sequel. Comunque, io spero che facciano un sequel. Comunque è passato molto tempo, perché lei ha avuto il tempo di pubblicare il suo cazzo di fumetto di merda, quindi in realtà io spero che facciano un sequel, ma non so, cioè non so come faranno a migliorare questo film, cioè a renderlo ancora più assurdo. Forse gli mettono le armi pure sui piedi, lo chiamano senza Samara, c'ho i pugni nelle mani. Allora, io volevo dire diverse cose. No, in realtà, ho già detto un po' di cose. Intanto che la roba alla Saw non è che, vabbè, insomma, ci sta, ma neanche troppo. E in generale le motivazioni del tizio fanno abbastanza ridere, del tipo, ehi, c'è questo troll che mi prende per il culo, allora andiamo da lui e gli piantiamo le pistole nelle mani. Ecco, è abbastanza ridicolo. E tra l'altro è abbastanza ridicolo anche lui, uno che nella notte fa il troll. Vabbè, comunque, il cacciatore di troll. Io tra l'altro questo film l'ho visto in italiano, non so per quale motivo. Non so se... Trollhunters. C'è una parte che mi ha fatto ridere veramente, ci sono alcune parti che mi hanno fatto davvero ridere, e in effetti sono contento di aver visto questo film, tra cui è registrato coglione, che credo sia la battuta più bella. Sì, quando oddio, sta... bellissima quella. Quando dice è registrato coglione, che gli fa vedere il tablet e c'è la conversazione col cattivo, no? Che di solito c'è. Ok, sì. Di solito uno si aspetta l'ultima conversazione in cui il cattivo gli dà un ultimatum e lui gli dice di non farlo, queste cose qua. E lì ho riso molto. Ho riso anche tanto. Mi sono scordato di dirvi che tra l'altro mi fa ridere anche un sacco il fatto che lui, il cacciatore dei troll, prende per il culo uno e dopodiché vede il suo nome utente seguito da admin e dice, ma questo chi cazzo è? Non so se avete notato questa roba. È come se tu, non so, se tu prendessi in giro Facebook e ti apparisse Zuckerberg, admin, e gli fai, brutta merda di Zuckerberg. No, ma questo dettaglio non è solamente inutile, è proprio, cioè, peggiora il film, cioè... è veramente un demente. Comunque, non so, sei nel programma di, che cazzo ne so, ISIS, video dell'ISIS in cui ammazza gli ostaggi, scrivi brutti stronzi, non uccidete gli ostaggi, appare ISIS admin, ehi tu pezzo di merda, capisci che chi sarà questo? No, però in generale mi è piaciuto, cioè mi sono piaciute anche le scene d'azione, perché secondo me sono fatte molto bene, cioè rispetto a Batman contro Superman è tutto un altro mondo, cioè fatto veramente bene. E tranne appunto quando lui è un fottuto cecchino, questo un po' fastidioso, e però mi è piaciuto molto. Avrei voluto vedere la faccia anche del tizio con la maschera da cavallo, non so se si può trovare in rete. Vabbè, allora, succede anche il contrario però, cioè, quando presentano... Cosa? No, succede anche il contrario, dicevo, quando presentano Nyx, che lei tipo uccide 50 persone in 10 secondi e poi non riesce a prenderlo. Lui quando cioè, va a prendere Harry Potter. Ah sì, vabbè, ok, ma quello fa parte del film, è normale. Ci sta che il protagonista non riesca, è tutto, e questo è abbastanza scontato, però lui è un fottuto cecchino. No, e volevo dire che questo film in realtà adesso non so quanto possa essere costato, allora io sto cercando perché vi dico, però ha fatto veramente un botto di soldi, tra l'altro vendendo Amazon io non ho idea di quanti altri soldi abbia preso, perché infatti sono i soldi solo del cinema e sono $600,000 e non ci sono quelli in America. Io avevo letto 600 milioni e ho detto, oh cazzo, poi, ah ok, mancano 3 zeri, allora vabbè. Però no, ho letto che il budget è molto limitato di questo film, quindi potrebbe essere una delle ragioni per cui ci hanno messo così tanto a farlo uscire. Non so però quanto, secondo me un milioncino l'è costato. Cioè praticamente in worldwide, cioè, vabbè, a parte che è uscito in un periodo in cui in effetti... Non è che già uno fa fatica ad andare al cinema, figurati andare al cinema a vedere Guns Akimbo. E però considera che tipo 300.000 di quei $600,000 che ha fatto li ha fatti tipo in Russia. Che troia. E minchia. Non credo che in molti stati sia uscito, non credo neanche in Cina sia uscito, per cui ci sta che non abbia fatto. No, ero curioso di sapere quanto costava, perché e le recensioni sono abbastanza medie, diciamo un 50% Rotten Tomatoes e un 6.3 e un 45 su Metascore e Metacritic, però è un, cioè, a me è piaciuto parecchio. Il fatto poi di averlo su Amazon Prime secondo me è anche un pregio, perché devo dire che di film brutti ma che mi sono piaciuti non ne ho visti su Netflix, mentre ho visto dei film brutti che non mi sono piaciuti su Netflix, quasi tutti. Ho da ridire su questa affermazione. Hai visto dei film brutti che ti sono piaciuti su Netflix? No, però tu sì, hai visto Polar su Netflix. Polar a me non è... Polar non è un film brutto e mi è piaciuto. Va bene. Sì, va bene, forse è vero. Voglio dissentire. Questa è la risposta di Prime a Polar. Ok. se state pensando, chissà se anche Prime ha il suo Polar, ora sapete la risposta. Esattamente. Vado a vederlo. Però aspetta, prima di consigliare questo film, cioè se volete vedere un film brutto che dentro c'è Daniel Radcliffe, ci sta anche Horns, non mi ricordo. Ma sai che sentivo una ragazza mi diceva che a lei è piaciuto Horns. A me pure, ma anche Swiss, ma secondo Army me Man. È orrendo invece. Swiss Army Man è un capolavoro. Non guarda, l'ho visto, Swiss, ma eccola là. Fa un cadavere lui, dico solo questo, fa la parte di un cadavere. Ma Horn non è quello che ha i capelli a forma di corna? Horn. Horn è quello dove c'ha proprio un corno. Ah. O delle corna, è tipo il non boy, ha... ma... Sì, ma coi capelli, tipo. No. Aspetta. Ho visto una... esatto, che sono pelosi, sì, ok. Ah no, non sono pelosi, sono solo fatti di merda, ok. Ho visto l'immagine, mi parevano... Molto bello. No, no, ragazzi, vedere. Swiss Army Man è tanta roba. E non lo so, io di lui ho visto coso, appunto, Miracle Workers. Miracle Workers, come non so, Miracle Blade. Che è bruttina forte. Che è brutta, devo dire. E nel finale un pochino ti fa ma poi comunque è brutta. Now You See Me 2, che è il film preferito di Andrea. Però onestamente non ho visto una sega di, cioè non ho visto tutti questi bellissimi film. Onus Alexandre Aia. Va bene, dai. E volevate aggiungere qualcosa? Ma è Igor. Ma scusate. No, c'è un film fatto Victor Frankenstein, faceva Igor. Oh, Igor senza gobba. Victor, la storia segreta del dottor Frankenstein. Quale gobba? Credevo avesse fatto Frankenstein, quello orrendo, vabbè. Sarebbe stato da lui. Com'è che si chiamava? Frankenstein. Ai Frankenstein, no. Ma sì, può essere. No, non ha fatto quello, però mi avrebbe fatto ridere perché è un film orrendo. Va bene, no, se non volete aggiungere null'altro, io chiuderei anche qua. Non so se Jacopo aveva un giochino pronto. No, me l'hai sfanculato. Ah, mi spiace. Non ti preoccupa. E buon compleanno. Va bene, allora grazie Jacopo di averci regalato questo bellissimo film per il nostro compleanno. E mi spiace se insomma volevi regalarci un film brutto, non è questo. E vi consigliamo tutti di andare a vedere Guns Akimbo su Prime. Se non vi piacciono i film d'azione, non vi preoccupate perché è comedy. Se non vi piace lo splatter, non vi preoccupate, c'è solo una scena in cui sparano in testa uno e dicono questo è un che questo è un quadro bellissimo, dove dice impressionismo. È un pollo. Ha un pollo. Pollo. Perfetto. Perfetto. Preciso. E basta. Ci vediamo sabato prossimo, direi, con non lo so, ci sarebbe un altro film brutto da vedere che a Jacopo è piaciuto, oppure magari ci viene in mente qualcos'altro, che sarebbe Sonic. Ah, vabbè, sì, anche no, cioè vedete voi. Magari stavolta decide qualcun altro che non sia Roberta. Sì. Cos'è questo ostracismo? Non lo so. Polaschi, abbiamo fatto Polaschi. No? Non è un buon periodo per un film da palle sullo spigolo. Hai ragione. Ah, ecco, una delle battute più divertenti è perché spari a tutti sulle palle. Cioè, questo è il livello. Oppure lei che dice segaiolo, che poi non so come sia in inglese sta roba qua. Wanker. Ah, wanker. Penso. E lui gli risponde, non so cosa voglia dire. va bene. E direi che possiamo chiudere qui. E noi ci vediamo sabato prossimo con un film deciso da Andrea. Ciao ciao! Come? Ciao! Ciao.